La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno e bentornati a questa nuova puntata della Quota Rosa. Beh, insomma, noi a Roma un pochino ci siamo abituati, se vogliamo parlare questa città. Ci siamo abituati perché sin dal tempo delle invasioni barbariche la città veniva presa d'assedio dai Longobardi e quindi ci siamo un po' abituati. Insomma, va bene, a parte gli scherzi, qui la Lega Nord è sbarcata a Roma, è sbarcata soprattutto al quartiere Parioli, Roma Nord, vorrei sottolineare, grazie a Claudia Bellocchi, 36 anni, ex modella che scappava dalle sfilate per andare addirittura ai comizi di Bossi. Claudia Bellocchi, come va questa campagna di adesione Lega Nord a Roma? Non è un po' un controsenso? Buongiorno, buongiorno a tutti. Ebbene sì, beh, un controsenso fino a qualche anno fa, quando io venivo a Roma. E poi sì, nelle varie anche per le sfilate, poi tornavo su. Adesso no, il vento è cambiato, io ho deciso di vivere a Roma, appunto, zona Parioli, dove ho iniziato la mia, diciamo, propaganda politica, e ho visto che lavorando sul territorio, diciamo che ho constatato un forte interesse verso il nostro movimento da parte dei cittadini romani, che sono rimasta molto sorpresa e colpita. Quindi ho iniziato a stabilire molti contatti, abbiamo ricevuto molte email e soprattutto dopo l'imponente risultato ottenuto a livello nazionale dalla Lega Nord alle ultime elezioni, sono aumentati quindi contatti, incontri, fino ad arrivare adesso. Io sono 2 anni che vivo a Roma, ho deciso di rimanere fissa, di stare sul territorio, quindi anche il sabato, la domenica, dove mi chiamavano, andavo in provincia, nelle varie, come dire, la periferia di Roma, perché vivo a Parioli, però la politica si fa ovunque, soprattutto nelle zone più disagiate. E ricevendo molti contatti, quindi di persone che volevano, mi chiedevano, venga nel mio quartiere, c'è un problema di qui immigrati, c'è un problema di non so, anche di parcheggio. Quindi sono rimasta perché chiamavano me, ma io dicevo, ma noi non siamo qui al comune di Roma, non siamo, insomma, ben rappresentati. E da lì è nato tutto, quindi con banchetti, gazebo, e raccolta firme anche per mandare a casa il governo Prodi in quel periodo, fino ad arrivare adesso a formare vari gruppi in provincia, quindi Manziana, Nettuno, Anzio, Frosinone, a Latina, dove infatti, è pronta, dove si svolta dove a giugno, siamo pronti per, sì, le provinciali. A Latina, per le provinciali saremo anche a Sabaudia, le comunali, a Viterbo abbiamo le sì, comunali. Ma contro chi lottate, Bellocchi? Cioè chi è il vostro target? Allora, cioè, nel senso, noi non, sì, lo so, lei vuole arrivare alla, allora, Bossi continua a dire con i fucili contro le canaglie romane. Allora, un movimento leghista laziale non è che lo riesca molto a capire, però poi ne parleremo anche con l'onorevole Emanuela Dall'Ago della Lega Nord. Voi, qual è il vostro obiettivo? Allora, io voglio arrivare a questo punto, sì. Allora, è una contraddizione perché stando a Roma, ecco, lo slogan Roma ladrona, quindi gli attacchi sono sempre così, ma non è così, perché stando qui sul territorio sono gli stessi cittadini romani che mi dicono, Bossi ha ragione, siamo con voi perché siamo stanchi di pagare le tasse e di non avere e ricevere servizi adeguati. Anche noi romani vogliamo pagare, siamo disposti, perché le tasse è giusto che si pagano, nessuno dice questo, ma avere un servizio, quindi sono gli stessi cittadini romani che sono stanchi di questa burocrazia lenta che non funziona, dei fannulloni che ci sono nelle varie amministrazioni, enti locali, che non va bene. Quindi questo abbiamo riscontrato, per questo diciamo che la gente poi con noi mi segue e ci segue, perché altrimenti io sono venuta qua, dico adesso inizio qui. Ho iniziato un po' così, vedendo, gettando, no, il sasso, quindi con manifestazioni, gazebo, manifesti a Parioli, e vedevo, volevo vedere la reazione della gente, dei pariolini, perché i pariolini sono un po'... Sempre un po' di destra sono sempre stati considerati, almeno sì, nella città. Che vedendo un partito come sempre ci hanno definito un partito di rozzi, di persone, diciamo, che vengono, che quindi guardano, diciamo, l'altra, il romano, in modo con dall'altro in basso. Quindi non è così, perché io, il comitato che ho a Parioli è formato da persone dei Parioli. Io ho fatto un incontro sabato, sì, ecco, dove sono venuta la signora con la bada, cioè con la, diciamo, la domestica in macchina. Quindi la domestica, sì, ho capito. Allora, io la devo interrompere perché devo dare anche un po' la parola, vero, al centro-sinistra. Mi sembra importante, visto che in questa prima parte saremo un po' sbilanciati, ma perché abbiamo voluto dare la parola alla Lega Nord Roma, diciamo, e alla Lega Nord nazionale. Allora, onorevole Laura Froner, invece, vicepresidente Commissione Attività Produttive, eletta in Trentino Alto Adige, Partito Democratico. Il Trentino è stato conquistato dal centro-sinistra, Veltroni ha detto è un clima cambiato, basta una provincia autonoma per far sì che il clima sia cambiato? Devo dire che più che conquistato è stato riconfermata la presenza, anzi il governo del centro-sinistra in Trentino. Per Dell'Ai è la terza legislatura, quindi una riconferma piena anche del presidente che, lo ricordo, insomma, aveva contro come avversario un candidato della Lega Nord per il Popolo della Libertà e per la Lega Nord. Diciamo che la sua vincita è stata talmente netta, più di 20 punti, da sorprendere addirittura noi, insomma, della maggioranza, perché nell'ultimo periodo elettorale soprattutto si erano sentite levare molte voci così, insomma, di protesta, più che molte erano molto visibili queste voci, però in realtà di risultati a casa ne hanno portati pochi, o quantomeno non quelli che di sicuro loro speravano, e la cosa ha avuto sicuramente un grande riscontro anche a livello nazionale, perché è stata considerata come una riconferma che contraddice un po' quello che era il vento che veniva dalla destra, insomma, anche dal nord del Trentino Alto Adige, quindi dalla parte dell'Austria, se vogliamo, con le ultime elezioni. Alto Adige, in Alto Adige, in Sud Tirol, poi, no? C'è stata questa avanzata della destra, no? In Alto Adige c'è stato un aumento molto consistente dei Freiheitlichen, ma ancora prima, appunto, anche le elezioni in Austria avevano visto un'affermazione piena di Haider e della sua coalizione, quindi... con una flessione, ricordiamo, in Alto Adige della SPD, no? Esatto, quindi... In Trentino invece il fatto di aver riconfermato presidente Lorenzo Dell'Ai, appunto, con il centro-sinistra autonomista, e di aver affermato il Partito Democratico come il primo partito del Trentino è stato sicuramente fonte di grande gioia per tutti noi, insomma. Invece praticamente c'è questa possibilità, onorevole Laura Froner, che la Lega sbarchi addirittura a Roma. Abbiamo sentito la signora Bellocchi molto molto attiva anche nella capitale, perché anche gli stessi romani si lamentano della burocrazia. Questa cosa vi spaventa come Partito Democratico? Ma io penso che la Lega intercetti un voto e una voce, insomma, di protesta che viene dal territorio, che dobbiamo sapere assolutamente interpretare anche noi, quindi lo ha dimostrato anche da noi a Trento, insomma, si è mossa bene cercando di creare consenso, aggregazione, insomma, ha mantenuto, anzi con il suo 14% circa, ha sicuramente riconfermato un buon successo a livello di partito. Però penso che poi nella parte, insomma, diciamo finale di quella che poteva essere la decisione di chi eleggere per il proprio governo, per il governo del proprio territorio, alla fine invece da noi, per esempio, si è rivolta ancora verso quelli che considerava le persone più capaci, o le persone che avevano dimostrato di essere più affidabili, insomma, fino adesso. Quindi ha scelto il certo invece che l'incerto. La quota rosa. E torniamo a parlare di politica in questa prima parte. Abbiamo iniziato appunto dicendo che la Lega Nord sbarca a Roma e stiamo commentando anche i risultati del Trentino. Lega in crescita, ma crolla il PDL, il boom di Bossi allarma la destra. Manuela Dall'Ago, per voi Lega Nord è un risultato positivo quello del Trentino? Sì, intanto buongiorno a lei, buongiorno a tutti i suoi ascoltatori. Il risultato è certamente positivo, non è un risultato di protesta, ormai la Lega ha superato da tempo il voto di protesta, è normalmente un voto convinto dei cittadini, a fronte anche di una garanzia che normalmente la Lega dà e ha dato in questi anni di capacità amministrativa laddove amministrato e anche di grande coerenza politica. Direi che una grossa vittoria personale della Lega in Trentino. Ricordo che avevamo le ultime regionali 3 consiglieri regionali, oggi ne abbiamo 8, non dimentichiamoci che insieme c'era anche la lista del candidato presidente Divina che ha portato a casa 2 consiglieri, quindi lo riteniamo un risultato positivo. Certamente avremmo sognato qualcosa di diverso, ma con 8 consiglieri regionali pensiamo di avere il numero sufficiente per prepararci, noi non abbiamo problemi, attendiamo anche i tempi lunghi per prepararci per la prossima volta. Lei è eletta in Veneto, c'è una richiesta da parte, visto che si sta parlando di Trentino Alto Adige, lo estendiamo un attimo, c'è una richiesta di Cortina di voler far parte dell'Alto Adige, ovviamente perché in Alto Adige arrivano dei fondi che non arrivano in Veneto, è giusto? Sì, ma non è una richiesta solo di Cortina, io sono della provincia di Vicenza, sono stata presidente della provincia 10 anni, devo dire che c'è anche una forte richiesta anche di alcune comunità montane che confinano col Trentino, Asiago per fare un nome, della provincia di Vicenza. Le richieste sono ampie, proprio per questa sperequazione che esiste, pur per motivi, per carità, storici su cui non voglio entrare, ma che certamente esiste, di entrate tra le province autonome di Trento e Bolzano e le vicine confinanti amministrazioni del Veneto. Quindi è una richiesta comprensibile che noi speriamo di bloccare un domani con la riforma federalista. Glielo stavo per dire. Allora senta, ora andiamo invece anche a questa novità, no, della signora Bellocchi, che addirittura nel quartiere Parioli a Roma, un quartiere nord molto altolocato e soprattutto generalmente considerato un quartiere comunque di destra, attacca dei manifesti della Lega Nord e la gente le va dietro, dice no, anche noi vogliamo il federalismo fiscale. Insomma, se l'aspettava lei, onorevole Dall'Ago? Dico, sono una che sono molto abituata a stare tra la gente nel territorio. Oggi il nostro voto è un voto che arriva da tutti i ceti sociali, arriva dagli operai così come arriva dagli imprenditori, perché il voto della gente che vuole il cambiamento. Devo dire che Roma personalmente non mi ha meravigliato, perché vede, il problema di Roma ladrona, che noi continuiamo a dire, è legato a quello che ha fatto questo Parlamento per 50 anni. Ed è un problema che oggi è sentito al nord, come è sentito al centro, come è sentito al sud. Io sono tra quelli, ad esempio in Lega, che propugnano liste Lega anche nel sud Italia, perché conosco tanti amici del sud che mi hanno anche telefonato durante le elezioni politiche e mi hanno detto: ma dov'è il vostro simbolo? Perché Bossi è l'unico che dice la verità. C'è una grande stanchezza oggi nel cittadino, quindi anche una stanchezza nei romani, che vogliono essere governati bene, governati meglio, vogliono soprattutto sapere dove vanno i loro soldi, come sono spesi i loro soldi, sono molto stanchi delle chiacchiere della politica, vogliono i fatti veri e trasparenti della politica. E in parecchi, in questo momento, la trasparenza, i fatti veri, gliela dà la Lega e quindi sono disponibili a votare Lega perché hanno capito la differenza delle parole. Roma è ladrona, intesa come la casa politica. La casa, il palazzo, nel palazzo oggi ci siete anche voi e soprattutto voi governate. Ma guardi, il problema è che lo sa lei meglio di me, che o si fa la rivoluzione con le baionette. Ma noi siamo pacifisti, alla Quota Rosa, ma anche a Radio 24, no, lo posso assicurare. Non si preoccupi, stavo proprio arrivando a questo, no? E al di là a volte dei toni duri, se vuole, la Lega ha sempre dimostrato di essere fortemente pacifista in tutte le azioni che ha sempre fatto, oppure si combatte laddove si possono cambiare le regole del gioco e quindi obbligatoriamente siamo a Roma, perché è da Roma che si può, mi scusi il gioco di parole, uccidere Roma. Onorevole Laura Froner, questa Lega che va in provincia di Latina, abbiamo sentito la signora Bellocchi che addirittura sfuggiva dalle sfilate per attaccare i manifesti, si presenta ad Anzio, a Nettuno, insomma in contrapposizione anche forte sia con la PDL ma soprattutto con il Partito Democratico, non rischia di erodere il vostro elettorato anche? Penso che appunto noi dobbiamo rafforzare la nostra capacità di essere vicini alla gente e di condividere gli stessi problemi, insomma, e quindi di rappresentarli anche per quello che riguarda diciamo la protesta rispetto a chi si trova a governare in questo momento, che non è di sicuro il centro-sinistra. Quindi devo dire che insomma sicuramente la Lega sta interpretando questa protesta, questa diffuso malessere, ma non è la sola, cioè lo stiamo facendo anche noi, quindi ben vengano tutte le voci che possono essere diciamo che possono rappresentare i cittadini, però cerchiamo di centrare bene l'obiettivo verso il quale si rivolgono. Lei come Partito Democratico appoggia l'idea di una bicamerale per le riforme, per il federalismo fiscale come proposto da D'Alema e Fini? Penso che su certi argomenti ci sia bisogno della massima condivisione possibile, anche perché non possono essere rivisti ad ogni cambio di governo, quindi c'è bisogno che ci confrontiamo con grande serenità rispetto a quelli che possono essere le condizioni che vengono poste per governare nei prossimi anni, a prescindere da chi si troverà ad essere eletto in quel momento. Quindi lei è favorevole? Tendenzialmente sono favorevole, è chiaro che però non devono rappresentare delle istituzioni insomma che poi non producono. No, cioè, no, anche se... perché la prima bicamerale fu così, no? Esatto, cioè se ci sono altri strumenti che possono assomigliare ad esse, alle bicamerali, ben vengano, insomma, cioè l'importante è che comunque siano delle istituzioni che permettono di raccogliere la massima condivisione possibile. Dobbiamo essere uniti su certe cose. Ecco, invece volevo dire un'altra cosa. Sì. Rispetto al voto in Trentino, per esempio, assolutamente mi sento di smentire quanto affermato dalla mia collega, perché da noi non ci sono amministratori. Ecco, l'unica eccezione è una donna, l'unica donna eletta nell'opposizione, che era fino a poco tempo fa un'amministratrice di un partito autonomista che adesso è con la Lega. Ecco, quindi è l'unico esempio, se vogliamo, di amministratrice o amministratore, insomma, all'interno di quel partito. Mentre per il resto, invece, gli elettori hanno preferito, se vogliamo, chi si esprimeva con più moderazione, con più misura, rispetto a chi invece si affermava anche con una certa aggressività, certo. Negli spot pubblicitari. Questo mi riferisco in modo particolare al candidato presidente, che ricordo era della Lega e che è stato battuto per un margine molto ampio. È chiaro che ha vinto il centro-sinistra, però diciamo che la Lega è in crescita, no? Questo mi sembra obiettivamente la sintesi giusta. E la PDL è in calo. Ora, questi sono i dati incontrovertibili, però io vorrei chiudere con Claudia Bellocchi, coordinatrice Lega Lazio, facendole una domanda. Ha incontrato già Umberto Bossi? Sì, allora, Umberto Bossi... E chi le ha detto? Siamo incontrati in una delle riunioni o delle nostre, quando chiude l'attività parlamentari, e il presidente Alessandri, l'onorevole Alessandri, appunto mi ha presentata e mi ha detto dove ero nascosta, perché stando qui a Roma ha fatto una battuta molto carina e dove ero nascosta, quindi... Insomma, è il suo appoggio, è l'appoggio del leader del suo partito. Questo volevamo sapere. Noi ringraziamo l'onorevole Laura Froner, vicepresidente Commissione Attività Produttive, eletta in Trentino Alto Adige nel PD. Poi l'onorevole Manuela Dall'Ago, Lega Nord, membro Commissione Affari Costituzionali, eletta in Veneto. E ringraziamo anche Claudia Bellocchi, coordinatrice della Lega nel Lazio, che ha anche scherzato un po' con noi, visto questa novità della Lega che sbarca a Roma. La quota rosa. Benvenuti in questa seconda parte della quota rosa di oggi, e vogliamo dedicare a questa seconda parte ad un argomento sicuramente più leggero di quello politico. Parliamo di gigolò, parliamo degli accompagnatori maschili. Insomma, in un mondo che cambia, anche le donne cambiano e anche questa figura cambia. Abbiamo visto, questa figura è stata lanciata dal famoso film American Gigolò con Richard Gere, dove lui a bordo di uno spider viaggiava per le vie di Los Angeles con la musica dei Blondie. Ma recentemente c'è stato anche uno scandalo, perché Lady BMW si è confessata, un gigolò è riuscito ad ingannarmi, e stiamo parlando di Helge Sgarbi, che ha ingannato una delle più importanti industriali tedesche, Suzanne Klatten, di 46 anni. Insomma, quindi il gigolò fa parte della nostra vita. Per parlarne abbiamo con noi vari ospiti. Do subito la parola a Rossana Bruzzone, insegnante, cabarettista, autrice di personaggi, mode e stili della modernità. Dandy, libertino, cicisbeo, macho, casanova, playboy, don Giovanni, femme fatale, star, gigolò, snob. Quanti sono, prima di tutto, questi tipi? 14, ma poi ce ne sono anche altri nuovi che sono emersi dopo che io ho scritto il libro, quindi non sono stati inseriti. Insomma, le tipologie maschili sono sempre in evoluzione. Ecco, noi abbiamo anche in linea Joyce, autore di Diario di un gigolò professionista, che poi al quale daremo la parola. Vorremmo sapere, proprio anche per Joyce, noi lo chiediamo anche per lui, qual è la differenza tra libertino, Don Giovanni e Casanova? Non è tutta la stessa frittata? Sembrerebbe, perché in realtà poi si è arrivati a usare un po' come sinonimi questi termini, però in realtà il Casanova, a differenza del Don Giovanni, è un personaggio realmente esistito, mentre Don Giovanni, secondo la maggior parte degli studiosi, anche se c'è stato qualche conflitto di interpretazione, però è un frutto, è il frutto di un'invenzione letteraria, no? Il Don Giovanni è il simbolo del male, infatti quando conquista una donna immediatamente la utilizza e poi la lascia, ma senza lasciare un buon ricordo, mentre Giacomo Casanova, che vive tra l'altro il secolo successivo rispetto a Don Giovanni, perché Don Giovanni è un personaggio del 600, Casanova del 700, Giacomo Casanova, quando abbandona una donna, riesce comunque a mantenere ottimi rapporti, proprio rapporti di amicizia. Addirittura è uscito un libro che raccoglie una serie di lettere di donne a Casanova, donne appunto che sono rimaste legate a lui e quindi gli chiedono consigli, ragguagli, e gli mostrano la loro stima. Il libertino è un personaggio più complesso, perché il libertinismo è una corrente culturale, filosofica, che include anche l'ateismo, il rifiuto dei dogmi, e nasce nel XVII secolo, che è appunto un secolo in cui i dogmi, il bigottismo, le restrizioni avevano una grande parte, ecco, nella società, e quindi chiaramente il personaggio del libertino, certo, ha tra le sue componenti anche quella erotica, ma in realtà le libertà che si concede sono a più ampio raggio. Ecco. E il playboy in tutto questo? è un Casanova degli anni 60, no? Sì, diciamo secondo me, rispetto a Giacomo, Casanova ha meno spessore, ecco. Casanova curava l'arte del corteggiamento nei minimi dettagli, il playboy è un personaggio più leggero, è un ragazzo appunto che gioca con le sue prede, non ha certamente la malignità e la negatività di un Don Giovanni, ma nemmeno la classe di Giacomo Casanova, che rimane un po' unico, ecco, come personaggio. A me sembra che, da come lei ne parla, Casanova sia un po' quello lì che intortava le donne in modo più elegante, insomma, era il più bravo ad intortarle, a far credere loro chissà che cosa, mentre Don Giovanni, si è parlato molto però della misoginia di Don Giovanni, no? Del fatto che Don Giovanni poi distruggesse tutto quello che toccava, e poi, come sappiamo dall'opera mozartiana, c'è a un certo punto il convivio di pietra e quindi Don Giovanni deve pagare per i suoi crimini. Vorrei anche però, visto che siamo in argomento, suggerire a chi non l'ha letto un famoso romanzo di Marai, La recita di Bolzano, proprio su Giacomo Casanova, molto molto bello. Allora Joyce, lei si sente un po' più Don Giovanni, un po' più Casanova, un po' più Joyce? Io sono tutti e tre insieme, messi insieme. Allora, lei da quant'è che sta in Italia? Da dove viene? Io sono giamaicano, però cresciuto in Canada e in Francia. Io sono in Italia da, diciamo, fisso da 5 anni. E a un certo punto ha scritto il diario di un gigolò, le sue avventure, insomma, le sue avventure un po' come Casanova. Ce ne vuole citare magari un paio molto divertenti? Che cosa bisogna fare quando si va fuori con una donna? Come bisogna corteggiarla? Qual è la curiosità che lei, immagino, attira, no, nei confronti delle amiche di questa signora? Ma il discorso del Don Giovanni e del Playboy sono tre cose diverse comunque, anche sono le cose che si assimilano, però è diverso, perché un Playboy è un ragazzo bello che piace alle donne, però non dobbiamo dimenticarci che un gigolo, un accompagnatore, è uno che si fa pagare, nel senso che la donna sa già che deve pagarlo e sa anche la cifra. Invece un Playboy e un Don Giovanni non sono pagato, magari può succedere che delle donne che sono troppo impazzite lui regala una camicia, una cosa così, sono nell'obbligo di comprarlo. Invece un gigolo si fa pagare, è obbligato di pagarlo. Questa è una differenza, dobbiamo dire, che conta molto. È fondamentale. Lei, sì. Quanto costa una serata con lei, Joyce? Ma se ne prende a Roma sono 1500 euro per nel senso tutta una giornata, nel senso l'ora dell'aperitivo fino al giorno dopo, non so, mattina 11, mezzogiorno, lasciando l'albergo, il motel o casa sua. Sia a Milano sono 700 euro, se dipende, più vado lì, più lontano, più costo. Vado anche in Giappone, in America, in Australia, faccio anche il viaggio con le signore, qualsiasi cosa che io possa accompagnare, no? Ma chi si rivolge a lei? Donne, sole, donne? Oggi come oggi, perché tutti mi chiedono queste cose, però oggi come oggi, tutti. Qualsiasi donna, dalla donna casalinga fino alla giornalista, alla campionessa di sport, qualsiasi donna che ha bisogno di avere una persona a chi fidarci e soprattutto divertirci senza nessun problema, capisci? Lei accompagna solo oppure poi, cioè, alla fine poi la serata si conclude anche con un incontro sessuale? Allora, diciamo la verità, oggi come oggi le donne, cioè, c'è tantissime solitudine, allora le donne ovvio che mi chiamano. Però sono molto più di quando mi chiamano, nel senso che mi dicano, tanti mi dicono magari non facciamo sesso, magari, però io vorrei una sera dopo, sul 100%, 80% andiamo sul sesso, nel senso che è una cosa che inquadra in più la serata, anche soprattutto può passare una giornata diversa di tutto quel che passano o che hanno passato col marito, l'amante, cioè proprio sono stufo, voglio una cosa diversa, anche se per una notte, per 2 giorni, per una settimana, anche se a pagamenti, quello oggi che è la cosa. Ricordiamo che appunto abbiamo citato American Gigolo, ma citiamo anche un nuovo film, il film Cliente, che sarà nelle sale cinematografiche a breve e che parla appunto di nuovo di questo argomento. Dottoressa Giuliana Proietti, psicologa, psicoterapeuta, responsabile scientifico del sito www.psicolinea.it. Lei ha una teoria abbastanza medica, quindi andiamo da un gioco come quello con Joyce invece a vedere come questi incontri poi però possono generare delle dipendenze. Ecco, nella sua esperienza, quale donna ha incontrato che avevano questo tipo di problemi? Allora, la mia esperienza è varia in questo senso e le spiego perché. Allora, prima di tutto, diciamo teorica, perché appunto mi sono interessata di questo problema, ci ho scritto diversi articoli e è una cosa che mi incuriosiva molto capire un po' le motivazioni dell'uomo, del ragazzo, le motivazioni della donna, e quindi insomma mi sono interessata di questa cosa. casualmente, siccome su Psicolinea c'è questo articolo sui gigolò, e su Google quindi viene riportato questo articolo, ma chiaramente in modo sintetico, appare il mio numero di telefono, no? E quindi a volte le persone non sanno che si stanno rivolgendo a una psicoterapeuta che ha scritto sui gigolò, ma non sono chiaramente una donna che cerca un gigolò. E invece continuamente, spesso perlomeno, mi telefonano questi gigolò che vogliono offrirmi la prestazione. E io mi sono accorta, ho spiegato subito che c'era appunto un malinteso, perché io appunto non cercavo gigolò, ma avevo semplicemente scritto su questo argomento. Però ecco, mi sono accorta che questi uomini si propongono, quindi ecco, ho potuto vedere, capire come si propongono, e io francamente sono rimasta molto molto sorpresa, perché insomma hanno un approccio diretto, come dire: oh, io allora ho visto che tu cerchi un uomo, cioè, io penso che questa cosa con la psicologia femminile non c'entra assolutamente niente. Adesso io penso che effettivamente è vero che una donna di potere, una donna che lavora, che ha la possibilità di poterselo permettere, può anche, no, usufruire di questo servizio e in qualche modo avere un tipo di appagamento che può essere sia, diciamo, sessuale, tipicamente sessuale, oppure anche un appagamento che deriva appunto dal fatto di poter gestire la sua vita e anche... Però le donne, lei dice, hanno altri sentimenti. La quota rosa. Allora, dottoressa Giuliana Proietti, psicologa di www.psicolinea.it, lei dice: la prostituzione maschile eterosessuale è una novità. Il fenomeno infatti è abbastanza diventato consistente a partire dagli anni 90. Ma allora, quali sono le donne che si rivolgono ai gigolò e perché? Il discorso del gigolò è un qualcosa che appaga non tanto, diciamo, la psicologia femminile o anche la vita sessuale, ma semplicemente il gusto del potere, cioè finalmente si ribalta la relazione, non è più l'uomo che fa la parte del leone, ma sono io che sono donna, che pago, quindi in qualche modo questo mi dà un appagamento che va al di là della prestazione sessuale, ma in sé io ritengo che il sesso occasionale non faccia parte appunto dei piaceri della sessualità femminile. E in questo mi rifaccio al fatto che anche si può leggere ovunque che comunque, come ci diceva anche il gigolò prima, queste relazioni poi diventano delle relazioni, è difficile che si vedano una sola volta, perché poi si incontrano di qua, di là, anche la donna lì, la Lady BMW, l'ha visto in Svizzera, l'ha visto in Francia, l'ha visto altrove, perché le donne comunque cercano una relazione che vada al di là del semplice aspetto sessuale, cosa che è diversa invece nell'uomo. Questo tipo di relazioni sono delle relazioni moderne che sono diventate uno status symbol, però non fanno parte, diciamo, del tipo di appagamento tipico della psicologia femminile e anche della sessualità della donna. C'era una volta il Latin Lover, leggiamo su Repubblica di domenica scorsa: ricche signore da corteggiare in cambio di regali, vita agiata e scalate sociali. Oggi, in un mondo sempre più frettoloso e pratico, si chiama escort e fa un mestiere che ha le sue regole, i suoi rischi e le sue tariffe. Grazia Visconti, giornalista autrice di Escort Life, sex inchiesta sul mondo delle squillo e dei gigolò di lusso in internet. Allora, che cosa ha scoperto la tua inchiesta? Ma diciamo che la figura del gigolò è in crescita esponenziale, e soprattutto tra le donne manager, donne che si dividono tra un consiglio di amministrazione e l'altro, che sono poi quelle donne più intraprendenti, più indipendenti economicamente, che assumono degli atteggiamenti quasi maschili alla fine, no? Infatti, ecco, anche questo esempio della signora Clatten, la signora BMW, a me sembra, per esempio, questa storia una sceneggiatura di un film. La storia idilliaca tra la ricca ereditiera e l'uomo, il bell'uomo dal fisico prestante, dove ci sono i ricatti, dove c'è di tutto. No, tra le altre cose, insomma, un uomo traduttore, parla 8 lingue, quindi, cioè, non è una persona da poco. Deve essere questo Helge Sgarbi, deve essere stato sicuramente una persona molto intelligente per incastrare una donna come Susan Clutton, no? Sì, però io, ecco, Helge Sgarbi per esempio non lo chiamerei propriamente un gigolo, ma semplicemente un ricattatore, perché il gigolo, per esempio, ecco, da tutte le interviste che ho fatto in questa inchiesta che è durata 3 anni, almeno quello che lo fa a tempo pieno e investe in questa sua attività, stabilisce una sorta di contratto con la propria cliente, con cui instaura un rapporto non problematico, perché c'è appunto questa transazione economica, no? Che alleggerisce ogni vincolo affettivo, un rapporto con regole ben precise. Quindi in questa storia invece, pur essendoci stata una mercificazione del corpo, no? Tutto è stato portato avanti con l'inganno, almeno da quanto si legge dai verbali depositati dalla signora Clutton. Quindi lui è un ricattatore. Joyce, lei nella sua carriera ha avuto delle donne che si sono innamorate di lei? Sì. E come... Anch'io mi sono innamorata anche di loro. E questo non è andato contro le sue regole professionali? Sì, però io sono un uomo, nel senso ho sempre un cuore, chi batto anche ma è un lavoro, cioè è un vero lavoro, è una cosa molto difficile, perché diventa un psicologo anche, soprattutto, no? Deve capire, anche capire se stessa a volte è difficile, perché quando una donna tu la senti, c'è un feeling grandissimo del tuo lavoro e ti lascia andare, perché è una cosa normale, non si può fermarci il cuore, no? Però ovvio che dopo alla lunga un po' di giorni prevale la distanza, la sicurezza, e allora lascio andare le cose. Ecco, ma lei per esempio quando si è innamorato non ha pensato va bene adesso smetto, trovo un altro lavoro? Quello è il problema, è lì il discorso, che quando mi innamoro sempre o mi dice no, quella lì è la donna della mia vita, per lei io sono pronto a smettere e tutte quelle cose lì, allora inizio a pensare che cosa deve fare, quando smetto, fa poco, cioè tante cose, dopo il tempo fa su un corso e non so, lei è lontano, io sono lontana, per fortuna c'è un lavoro che mi chiama a destra e a sinistra, allora dimentico più facilmente, nel senso che è dall'altra parte, è stato bello e basta, capisci? Però è sempre difficile. Ha pensato quando smetterà? Ma a dire la verità, non mi sono mai posato la questione quando smetto, quando mi innamoro, al momento di qual è la donna per me, magari sicuramente lei mi dirà di smettere, perché dopo un po' di tempo, sì, non so, fra 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, ma magari non smetterò mai. Ma lei, per esempio, paga le tasse, sì? Ah, chi lo sa? Ah, non si sa. Senta, e invece, l'altra cosa fondamentale, che età hanno le donne che si rivolgono a lei? Beh, io ho 33 anni, no, però può essere una ragazza dalle 20, fino alla signora 64 anni, anche 70 anni. E lei... non ho fatto niente, però ho passato una bella serata con lei, era una miliardaria, è venuto il suo chauffeur, sono andato da una barca, dopo la barca agli 8, avevamo ballato, dopo... E non avete fatto niente però? No, niente, mi ha dato lo cachet, non la busta, dopo sono chauffeur mi ha accompagnato, no, ci sono delle serate così, non è... Dobbiamo capire la cosa, perché adesso ormai è vero che è diventata una prostituzione, nel senso, è sempre prostituzione, però nel senso di strada, di classe, anche se anche le clienti, uno come me non ha le stesse clienti delle persone che sono sulle strade o che magari hanno agenzia dove sono tante persone che fanno lo stesso lavoro di me. Allora, Rossana Bruzzone, il dandy chi era? Oscar Wilde? Sì, ecco, l'aspetto interessante del dandy è che assume una posizione molto netta a livello sociale, cioè segue la religione dell'eleganza, la propria regola, si assoggetta polemicamente alla propria regola in spregio alla società in cui vive. Ecco, con il dandy siamo proprio nel XIX secolo. È interessante come ogni personaggio abbia un ruolo comunque legato alla società in cui però nasce, ecco, no? Negli anni 80 per esempio il dandy poteva essere Brian Ferry, il cantante degli ABC anche, no? Certo, cioè sì. Che erano abbastanza eleganti, sempre curatissimi, anche gli Spandau Ballet erano un po' dandy. Certo, anche se non avevano, diciamo, questo retroterra culturale, cioè non avevano esattamente il significato, la ragione d'essere che poteva avere un Oscar Wilde o un Baudelaire, però sicuramente oggi per esempio c'è il metrosexual che anch'egli non ha delle motivazioni culturali così fondate, così radicate, però comunque è un personaggio che cura l'estetica del proprio corpo, ecco, non solo, ma anche l'abbigliamento, un personaggio che si depila, che segue delle proprie regole. Grazie Visconti. Quale in questa inchiesta che cosa ha scoperto, come bisogna proteggersi da dei giri anche non troppo chiari? Diciamo che questi ragazzi si gestiscono un po' in modo autonomo, no? A differenza magari di ragazze che si prostituiscono in strada, dove dietro c'è tutto un racket, tutta, no, una situazione pericolosa, e questi ragazzi no, si gestiscono, hanno il loro sito su internet, si fanno fare le foto, fanno promozione del sito, insomma sono praticamente indipendenti da questo punto di vista, quindi non c'è un rischio di essere, no, di trovarsi in delle situazioni spiacevoli per le donne. Certo, comunque devono sempre andare coi piedi di piombo, perché insomma non si sa mai chi trovano, certo, attraverso internet. Dottoressa Giuliana Proietti, nella sua professione come psicologa, ha dovuto fare conti con una donna che era diventata dipendente rispetto ai gigolò? Beh sì, effettivamente ci sono appunto delle donne che in qualche modo diventano dipendenti. Io ho avuto una paziente che appunto si rivolgeva a questi uomini a pagamento, e in qualche modo, insomma, sicuramente all'inizio era abbastanza soddisfatta, diciamo, si sentiva abbastanza contenta e sembrava quasi che fosse uscita dalla depressione in cui appunto era caduta, e poi invece ha sviluppato una sorta appunto di dipendenza e insomma è stato molto difficile tirarla fuori, insomma farle anche capire che in fondo quello che lei cercava era l'amore, insomma. Bisogna sempre ricordarsi che un conto è un gioco, un conto è una serata, un conto invece poi cercare qualcosa che in questi incontri non c'è, non esiste. Io ringrazio le mie ospiti, ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.